Mare, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. L'annuncio di MSC per salvare la Wärtsilä di Trieste, riassorbendo tutti i suoi 300 dipendenti per produrre carri ferroviari. Si tratterebbe di un accordo tra i due colossi, positivi sindacati che però attendono di vedere il piano industriale. Silenzio dalla regione in questa fase. Nel tavolo per l'accordo di programma fissato al Ministero per domani non è prevista al momento una rappresentanza di MSC. A Trieste è arrestato un violentatore seriale, ha aggredito una donna su un bus di pomeriggio in pieno centro ed è stato bloccato da autista e passeggeri. Il giorno precedente aveva violentato una ragazza seguendola dentro il portone ed era stato messo in fuga grazie all'intervento di una vicina. Riesumata la salma di Liliana Resinovic, la 63enne triestina trovata morta 3 settimane dopo la scomparsa da casa il 5 gennaio 2022. Il caso ora si sposta a Milano, dove sarà eseguita una nuova autopsia. Il GIP ha infatti disposto nuovi esami, rigettando la richiesta di archiviazione per suicidio avanzata dalla procura. Non seguivano il corso né lo superavano, ma ricevevano lo stesso l'attestato relativo alla formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Indagine della procura di Trieste su un ente di formazione di Trieste, denunciato il titolare e anche l'impresario di un cantiere edile. Un centinaio di trattori per le vie di Pordenone per una manifestazione del Comitato Spontaneo Agricoltori. Tra le richieste consegnate al prefetto, lo stop al Green Deal e la conferma degli sconti sul prezzo del gasolio. Oggi martedì grasso, giornata clou del carnevale. A Trieste nel pomeriggio la sfilata dei rioni, a Monfalcone invece questa mattina si sono celebrate le tradizionali nozze di Soranzoletto. Fuga da Canfanaro d'Istria, 8 anni, la storia di Graziella Fiorentina, autrice di Chi ha paura dell'uomo nero, è stata rimaneggiata ed è diventato un film prodotto dalla Rai per il giorno del ricordo della tragedia delle foibe dell'esodo. Sentiremo il racconto della figlia dell'autrice. Udinese, 3 punti d'oro a Torino. Con una rete di Giannetti, i friulani battono la Juventus e fanno un bel passo avanti verso la salvezza. Buongiorno, ben ritrovati da Daniele Lettige e Francesca Vigori. MSC dunque si candida al salvataggio dello stabilimento di Wärtsilä di Bagnoli della Rosandra. Abbiamo un accordo, ha dichiarato il proprietario del colosso della logistica Gianluigi Aponte. A Bagnoli verrebbero prodotti carri ferroviari riassorbendo tutti i dipendenti, positivi ma cauti i sindacati. Il servizio. Una notizia che potrebbe rappresentare la svolta per i 300 lavoratori di Wärtsilä, ma per ora anche tante domande in attesa di risposta. Sull'annuncio del numero 1 di MSC Gianluigi Aponte di un accordo con la multinazionale finlandese per rilevare il sito di Bagnoli della Rosandra e produrvi carri ferroviari, qualche indicazione in più potrebbe venire dal tavolo al Ministero per il Made in Italy e le imprese, già fissato per domani 14 febbraio, ma al momento non sarebbe prevista la partecipazione di una rappresentanza di MSC. Silenzio anche da parte della regione Friuli Venezia Giulia, considerata la delicatezza della fase, mentre le organizzazioni sindacali accolgono in modo decisamente favorevole la notizia di un investimento sul territorio da parte di MSC, ma frenano in attesa di conoscere i dettagli del piano industriale. Il primo aspetto sul quale si dovrà fare chiarezza è il rapporto con Ansaldo, se cioè il progetto di MSC sia destinato ad affiancarlo o se le due soluzioni siano alternative. Una differenza non da poco se si considerano i numeri. MSC annuncia infatti di voler assorbire tutti i 300 addetti, senza precisare tuttavia in quali tempi, mentre il piano di Ansaldo definiva una serie di step successivi. D'altra parte, rileva il segretario della FIOM CGL Marco Relli, la stessa Ansaldo a suo tempo si era detta disponibile a soluzioni di questo tipo. Questo permetterebbe eventualmente di andare a recuperare anche una parte dei lavoratori dell'indotto. È importante capire che fine farà l'accordo con Ansaldo, ribadisce anche Alessandro Gavagnin per la FIM CISL, e definire tempi e passaggi del piano industriale, se esiste già. Spero lo si dettagli al più presto e che inizi un dialogo con la politica. L'auspicio è che il governo prenda immediatamente contatti con MSC, commenta Antonio Rodà, segretario provinciale UILM, e che al tavolo ci sia una rappresentanza della società a dettagliare il piano industriale. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. La cronaca. A Trieste la polizia ha arrestato un afgano di 22 anni senza fissa dimora e richiedente protezione internazionale per il reato di violenza sessuale. Un equipaggio della squadra volante è intervenuto martedì scorso nel pomeriggio presso la fermata La Luminosa di via Carducci, dove una donna ha riferito di essere stata vittima di palpeggiamenti in prossimità della porta d'uscita del mezzo della linea 21. Alle urla della donna, l'autista, il controllore e altri passeggeri sono accorsi in suo aiuto, fermando il mezzo e trattenendo l'aggressore in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine. Il personale, quindi, anche grazie alla visione dei filmati prodotti dalle telecamere di videosorveglianza presenti all'interno del mezzo, ha dato riscontro alla denuncia formalizzata dalla donna e ha arrestato l'uomo, il quale, su disposizione del pubblico ministero Pietro Montrone, è stato condotto in carcere. La volante era intervenuta anche nella serata precedente all'interno di un condominio di Viale 20 Settembre, poco distante dunque dal luogo dell'altra aggressione, per un intervento per violenza sessuale perpetrato all'interno dell'atrio dello stabile ai danni di una ragazza che stava rincasando e che, grazie all'intervento di una vicina, è riuscita a mettere in fuga l'aggressore. La descrizione fornita dalla vittima corrispondeva al soggetto arrestato il giorno successivo e la ragazza ha riconosciuto inequivocabilmente il suo aggressore tra le foto che le sono state fatte visionare dalla polizia. Pertanto, oltre all'episodio avvenuto sul mezzo della linea 21, all'afgano è stato contestato anche il reato di violenza commesso il giorno prima. Il GIP ha convalidato l'arresto e ha accolto la richiesta di custode cautelare in carcere formulata dalle PM. È durata circa un'ora questa mattina al cimitero di Sant'Anna a Trieste la riesumazione della salma di Liliana Resinovic. Nel camposacro, durante le operazioni, erano presenti anche il marito Sebastiano Visintin e l'amico di Liliana, Claudio Sterpin. Il corpo sarà trasferito a Milano per la nuova autopsia. È stato riesumato nella mattinata il corpo di Liliana Resinovic, la 63enne scomparsa a Trieste il 14 dicembre del 2021 e ritrovata morta 3 settimane dopo, il 5 gennaio 2022, nella zona dell'ex ospedale psichiatrico. Un'operazione durata circa un'ora. Al cimitero di Sant'Anna a Trieste presente anche il marito della donna, Sebastiano Visintini, e più defilato l'amico di Liliana, Claudio Sterpine, che ha lasciato sulla tomba una rosa e un cartello rivolto alla vittima. Chiede scusa per il vilipendio, ma dice: spero sia utile per arrivare alla verità. Questo potrebbe essere l'ultimo atto delle indagini sulla morte della donna, che resta ancora un mistero. Per trovare una verità, si spera definitiva, il GIP aveva disposto nelle scorse settimane una seconda autopsia, opponendosi alla richiesta della procura di archiviare il caso come suicidio. Gli esami saranno svolti a Milano dalla dottoressa Cristina Cattaneo, nel laboratorio dell'Istituto di Medicina, insieme a 3 periti indicati dalla procura. L'inizio è fissato giovedì 15 febbraio. Liliana Resinovic, al momento del ritrovamento, aveva la testa avvolta in 2 sacchetti di plastica e il corpo chiuso in 2 sacchi, infilati uno dall'alto e l'altro dal basso. Il pubblico ministero ha chiesto ai periti di accertare epoca, causa e modalità del decesso, anche descrivendo le lesioni riscontrate sul cadavere e la loro origine. Il risultato dovrà essere reso noto entro 90 giorni. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Oltre 100 trattori in corteo questa mattina sul ring di Pordenone per la manifestazione organizzata dal Comitato Spontaneo Agricoltori, che ha consegnato al prefetto un documento con le richieste dei manifestanti, tra cui la revisione del Green Deal europeo e il mantenimento del prezzo calmierato per il gasolio a uso agricolo. Oltre ogni aspettativa, con 117 trattori e più di 150 agricoltori presenti, Pordenone partecipa alla protesta del settore agroalimentare con una manifestazione iperpartecipata, una lunga sfilata di mezzi agricoli partita dal parcheggio di un centro commerciale e conclusa con una delegazione in prefettura a presentare un documento. Nessuna sigla, nessun partito o parte politica in quella che gli organizzatori, che preferiscono l'anonimato e decidono di parlare con i media solo tramite dei portavoce, dichiarano essere una manifestazione spontanea. Chiedono un confronto politico tra chi legifera ad ogni livello e chi invece ogni giorno è sui campi e negli allevamenti. Tutte le politiche, da partendo dall'Europa e arrivando alle politiche italiane, ci stanno strangolando. Costa produrre i nostri prodotti perché gli standard produttivi che ci chiede l'Italia e l'Europa sono molto alti e di contro il prezzo sul mercato non ci ripaga più. Siamo in grossa difficoltà, non riusciamo più a reggere questa situazione. Al di là delle polemiche sugli aiuti al settore, giudicati corposi ma insufficienti, 5 i punti del documento del Comitato Spontaneo Agricoltori Pordenonesi: la redistribuzione del valore all'interno delle filiere, la riqualificazione della figura dell'imprenditore agricolo, un maggior controllo delle importazioni extraeuropee, una burocrazia più snella ed efficiente, ma anche la revisione del Green Deal alla ricerca di una transizione più equa che non penalizzi le imprese europee, finendo per favorire le importazioni a basso costo, pur non negando l'emergenza climatica. Abbiamo bisogno di un'attenuazione, diciamo, degli effetti del Green Deal. Quello sarebbe la cosa più importante. Noi il Green Deal non è che non lo vogliamo, assolutamente. Capiamo che ci sono dei cambiamenti in corso, per cui, però diciamo che il peso non deve cadere necessariamente tutto subito su di noi. Pordenone, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Alle 12.40 siamo al tempo, cielo sereno, poco nuvoloso su tutta la regione. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 12 gradi, a Udine e Gorizia 14, a Pordenone 13, a Tolmezzo 9 gradi, a Forni di Sopra 8, a Tarvisio 7, a Piancavallo 4 gradi, a Sappada 0 gradi. Sul Monte Lussare e sul Monte Zoncolan 0 gradi, sulla costa a Lignano 12 gradi, a Grado 11. Le previsioni: nel pomeriggio cielo in genere poco nuvoloso, le temperature massime fra poco potranno raggiungere i 15 gradi in pianura, domani cielo in genere poco nuvoloso ma con maggiore nuvolosità sulla fascia orientale prealpina e zero termico attorno ai 2000 metri. Torniamo alla cronaca. I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trieste hanno accertato da parte di un ente formativo della provincia il rilascio di attestati di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro falsi o non conformi a quanto previsto dalla normativa. Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Cristina Bacher della Procura di Trieste, sono partite da un controllo in un cantiere edile e hanno portato alla denuncia del titolare dell'ente formatore e del datore di lavoro di un operaio in possesso di una falsa attestazione. Nel corso delle attività i carabinieri hanno ricostruito con decine di testimonianze, perquisizioni e sequestri di centinaia di registri attestati di formazione, la non conformità di alcuni corsi e il rilascio di almeno 15 certificati formativi sulla sicurezza non legali. In alcuni casi i corsi non venivano svolti dal lavoratore, ma semplicemente veniva inserita la loro presenza nei registri nei quali si attestava falsamente il superamento del corso. In altri invece le modalità dello svolgimento erano difformi per durata, inoltre era assente un interprete nel caso fossero presenti lavoratori stranieri. Lavoratori dunque che hanno operato ignari delle procedure che permettono di svolgere l'attività lavorativa in relativa sicurezza. Di fatto bastava versare all'ente la cifra prevista dal tariffario e si otteneva in brevissimo tempo un attestato apparentemente conforme che permetteva in caso di ispezione di evitare sanzioni, mettendo però in questo modo a repentaglio l'incolumità dei lavoratori da infortuni. Sia gentile, mi metta una firma su questa ricevuta per dimostrare al mio datore di lavoro che sono venuto a proporle l'acquisto di mobili e che le ho lasciato il catalogo con gli sconti. È in questo modo che una sessantenne di Sacile è caduta nella cosiddetta truffa del catalogo, firmando a un giovane venditore di una ditta di Bovolenta in provincia di Padova una finta ricevuta che in realtà si rivelava essere un contratto con cui la signora si impegnava ad acquistare mobili, divani o elettrodomestici per un importo di 10.500 euro più IVA. La signora sacilese ha saputo della non specificata merce in arrivo soltanto 2 giorni fa, quasi un mese dopo la firma, quando ha ricevuto la chiamata telefonica di un operatore della ditta padovana. Si è quindi rivolta all'Associazione dei Consumatori ADOC per denunciare la truffa e ha sporto denuncia anche ai carabinieri di Sacile. Oggi è martedì grasso, a breve a Trieste, a Monfalcone, cominceranno le sfilate dei carri. Quella del capoluogo regionale partirà alle 14 da Piazza Oberdan per concludersi in Piazza Unità d'Italia. Alla stessa ora la sfilata di Monfalcone che partirà da via Matteotti. A Udine in piazza Matteotti e a Pordenone in piazza 20 settembre invece dalle 14.30 alle 18 animazioni per i bambini. Tornando a Monfalcone questa mattina nella nostra trasmissione giornalistica televisiva Buongiorno Regione c'erano il notaio Toio Gratariol chiamato a leggere nella città dei cantieri il testamento con Sor Anzoletto Postier appena entrato in servizio in bisaccaria. Orlando Manfrini, che per decenni ha vestito i panni del postiere della defunta, cioè l'Austria, lascia il testimone al suo successore, Franco Ungaro, che sarà il 13° Sior Anzoletto, certificato. Io sono il nuovo postiere, perché l'altro postiere è andato in pensione dopo 59 anni di distribuire posta. E quest'anno, anche lì, distribuisco posta. Parto di mattina con la borsa piena di lettere. E la gente se sai coccola, Monfalcon, perché ne offri sempre un bicerin, un biscottin e così alla sera torna a casa con la borsa svoda di lettere e con qualcos'altro de pien. Come spiega il notaio Toio Gratariol, il cambio della guardia ha richiesto una selezione molto severa. È stata una procedura molto lunga e faticosa. Abbiamo fatto una specie di selezione perché l'Anzoletto nuovo doveva avere delle caratteristiche. Allora abbiamo detto, cerchiamo una persona che abbia perlomeno un po' di esperienza nella recitazione. Non si è presentato nessuno. Abbiamo detto, che venga perlomeno una persona che abbia un po' di dimestichezza nel parlare in pubblico. Non si è presentato nessuno. Allora ho fatto il terzo tentativo, che venga perlomeno qualcuno che non sia astemio, si è presentata a mezza bisiacaria. La cosa che mi ha fatto più piacere è che Mi hanno dato una sposa che è la fine del mondo. E come che si usa oggi? Lega 45 anni di meno di me, per cui mi ha fatto ringiovanir che non avevo un'idea. Il matrimonio combinato è con Lisa Piran, finalista di Miss Italia. Insieme a lei, il martedì grasso, Sor Anzoletto fa il corteo con la banda per i borghi della città fino a raggiungere Piazza della Repubblica per la cerimonia. Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Si terrà a Grado dall'8 all'11 aprile il convegno nazionale delle Caritas diocesane, dedicato quest'anno al rapporto con il confine. Proprio in questi minuti è in corso a Gorizia la presentazione del programma, che ci è stato anticipato in questa intervista dal presidente della Caritas italiana e arcivescovo del capoluogo isontino, Monsignor Carlo Roberto Maria Redaelli. Il tema sarà quello del confine, proprio perché si colloca qui sulla nostra zona del nord-est, proprio sul confine, e quindi vuole essere proprio il superamento dei confini. Il confine non è soltanto il confine fisico, il confine tra gli stati, ma il confine che passa tra le comunità, che passa anche all'interno di noi stessi. Quindi sarà tutto un tema legato a questo. Possiamo dire che ci sarà al centro anche il tema dell'accoglienza? Anche il tema dell'accoglienza, soprattutto se l'accoglienza diventa appunto il superamento dei confini, che non vuol dire essere tutti uguali, no? Perché il confine ha anche un aspetto positivo, nel senso che comunque individua le persone, ma è un conto un confine che separa, è un conto un confine che permette poi un superamento, permette una conoscenza tra diversi, no? Non dobbiamo diventare tutti uguali, evidentemente. Questo convegno della Caritas sarà anche un appuntamento un po' che anticiperà e preparerà la visita di Papa Francesco in regione, che sarà questo luglio? Esattamente, lì il convegno sarà soprattutto con delle settimane sociali, quel caso, ma certamente ci poniamo su questa scia, e anche la scelta qui è legata anche all'evento di Gorizia 2025. Chi parteciperà al convegno e alla tavola rotonde? Per quanto riguarda il convegno ci saranno circa, penso, un 600 delegati che vengono da tutta Italia, e poi la tavola rotonda sicuramente ci sarà la presenza della Caritas slovena, anche di quella greca, quella della Croazia. Ci sarà anche il presidente di Caritas Europa, Monsignor Landau, che è di Caritas Vienna, e poi inviteremo invece dai tavoli di confronto sempre su questi temi del confine, ci sarà anche il cardinale Zenari, che è l'attuale nunzio in Siria. In occasione del giorno del ricordo, la RAI ha prodotto un film, La Rosa dell'Istria, che potete rivedere sul sito di RaiPlay, tratto dal libro di Graziella Fiorentin, Chi ha paura dell'uomo nero. La Fiorentina è fuggita con la famiglia da Campanaro d'Istria quando aveva solo 8 anni e quindi ha vissuto quei drammi con occhi da bambina. Ce lo racconta sua figlia Maria Rita Tisato, che sentiamo dopo un breve estratto del film. Non dimenticare mai chi sei, da dove vieni e quello che hai vissuto. Fallo per me, per tutti noi istriani, perché credimi, presto il mondo farà di tutto per dimenticare la nostra storia. Diciamo che anche gli esuli sono rimasti in silenzio per dignità, perché hanno visto l'accoglienza che hanno avuto, perché i pregiudizi sono difficili da eliminare o da affievolire, e a tutt'oggi ce ne sono parecchi. Sua madre è poi tornata a Campanaro d'Istria. Com'è stato il primo ritorno? Gliel'ha raccontato? C'eravamo nel primo ritorno, eravamo bambini, e poi ce n'è stato un altro. Mia mamma era sempre riluttante ad avvicinarsi alla casa, e ricordo di essere stata io ad insistere di entrare in casa sua perché a lei gli scoppiava il cuore. Oltretutto mancavano le persone, e un vicino di casa è stato anche vittima di infoibamento. Sì, era il suo santolo. Prima che partissero è sparito. Si sperava che quelle voci non fossero vere, o comunque fossero solo per alcuni personaggi politicizzati, non per altri. La mia famiglia, erano già venuti i partigiani a prenderli la sera prima, per portarli in foiba, ovviamente, perché il nonno era medico e comunque bisognava eliminare le persone di un certo status sociale, per eliminare proprio la cultura italiana, i personaggi di spicco dell'italianità, tant'è vero che prima cosa che hanno fatto i partigiani è stato quello di bruciare le anagrafi. E infatti mia mamma non ha più avuto un certificato di nascita fino a una decina di anni fa, in cui abbiamo trovato una copia in parrocchia nascosta e per cui è potuta finalmente nascere. Calcio, una vera e propria impresa, quella compiuta dall'Udinese che ieri sera nel posticipo della Serie A ha battuto 1-0 a Torino la Juventus, seconda in classifica, infliggendole la prima sconfitta interna di questo campionato. Una vittoria che dà respiro e morale ai friulani in chiave salvezza, arrivata anche grazie all'apporto dei giocatori entrati a partita in corso, come ha detto al termine del match l'allenatore Cioffi. Sentiamolo. La Juve ha fatto la Juve, quindi credo che in questo caso siamo stati bravi noi e resilienti a soffrire il primo tempo. Dico bravo ai ragazzi perché hanno saputo soffrire e non hanno mai dato segno di cedimento. Siamo rientrati nello spogliatoio consapevoli che avevamo in mano un bel jolly e che lo volevamo portare a casa in tutti i modi, e così hanno fatto. Poi abbiamo avuto anche la sensazione di poter fare il secondo, ma credo che l'atteggiamento di tutti sia stato a livello, specialmente di chi è entrato, che nelle partite passate non ci aveva dato tanto. Chi è entrato credo abbia timbrato presente in termini di atteggiamento, di volontà al sacrificio, che è quello che noi siamo ad oggi. Biathlon, quarta gara oggi pomeriggio per Lisa Vittozzi e mondiali di Nove Mesto. La sappadina sarà impegnata nell'individuale e partirà con il pettorale 10 alle 17.15. La gara sarà visibile in diretta su Rai Sport HD e Rai Play in collegamento dalle 17.05. Il servizio. Riparte la rassegna iridata di Nove Mesto con la 15 km individuale femminile. Lisa Vittozzi cercherà di regalare un'altra medaglia all'Italia dopo lo splendido risultato ottenuto nell'inseguimento di domenica. Quella di questo pomeriggio sarà la prova più dura delle donne, dove fondamentale sarà la precisione nei quattro poligoni. Sono consapevole che posso fare bene, e tutto deve andare al meglio, quindi cercherò di fare il mio e sono sicura che posso fare bene. La sappadina ha ancora in testa il finale al cardiopalma dell'inseguimento, con la coppia francese Braisat-Boucher-Chavoux alle spalle. Sono uscita dal poligono sapendo che avevo sbocciato un po' lo schermo per vedere se anche loro avessero sbagliato. E sono uscita dal giro di penalità e mi sono detta devi andare a prenderti quello che è tuo. E ho voluto gestire bene l'ultimo giro perché sapevo che loro erano in due e sarebbero tornate forte sotto, anche perché da dietro è sempre più facile. Però ho tenuto duro fino in cima alla salita e ho detto adesso fuori tutto quello che c'è perché voglio prendermi questo argento. Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. Sette appuntamenti per un'autentica parata di stelle e il calendario del cartellone 2024 dell'Accademia di Studi Pianistici Antonio Ricci di Udine, presentato questa mattina. Sentiamo. Nel sontuoso salone d'onore del Palladiano Palazzo Antonini Masari, sede del Rettorato dell'Ateneo di Udine, è stata presentata la prima parte di stagione, sette appuntamenti con altrettanti nomi illustri del panorama internazionale, dell'Accademia di Studi Pianistici Antonio Ricci, che festeggia il suo 45esimo anno di attività. Un'autentica parata di stelle che per l'inaugurazione ospiterà venerdì alle 18 la pianista ucraina Anna Kravchenko, vincitrice del prestigioso concorso Busoni. L'artista si esibirà nella sede universitaria di Palazzo Antonini con un programma interamente dedicato a Chopin. Sabato 24 febbraio sarà invece protagonista Benedetto Lupo, uno dei più acclamati interpreti di oggi, che proporrà musiche di Robert Schumann e Johannes Brahms. Si prosegue quindi con Gabriele Strata sabato 2 marzo e a seguire con il noto solista Enrico Brunzi assieme all'orchestra La Filarmonie. Olla Fionlaneri sarà ospite dell'Accademia per il concerto con cui terminerà l'integrale delle 32 sonate di Ludwig van Beethoven sabato 13 aprile, mentre Michele Campanella proporrà un programma che comprende anche la sonata in si minore di Franz Liszt sabato 25 maggio. Concluderà la prima parte della stagione concertistica il Quartetto Adorno sabato 1 giugno con un programma dedicato a Beethoven e Schubert. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. Il giornale radio si chiude qui da Daniele Lettige e Francesca Vigori che l'hanno redatto e condotto, Andrea Fontanotte che ha curato la parte tecnica, Valentina Veneruso in redazione. Grazie per la cortese attenzione. Buon pomeriggio. È Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.